già vuole che più nessuno cambia. Catarina. un superstar, guarda. Se hai il telefono, registrami e me lo mandi su WhatsApp. Ma non rende la situazione. Anche perché è registro. Già rende, io già me ne accorgo se esce forte o no. Cava, visto? Non era il potenziometro, ma era la capsula che stava partendo. Senta un attimo. Parla. Ascoltami. Prove tecniche e trasmissione, prove tecniche microfoniche, avanti. Adesso devi mettere salva e poi condividi e metti WhatsApp. Oio. E Luca, non si è sentito stamattina, no? Vero, qua ascoltatelo. Aspetta che devo fare un passaggio, con un altro passaggio voglio fare con me. E questo è l'altro passaggio, me lo registri? Ora attenzione, il canale 10, cambio. Primo passaggio è buono, dai. E il secondo, guardato hai? Sì, ma io non lo sento saturo, come dicono. Non è saturo la radio, boh, perlomeno che la faccia al telefono camuffato. Ma che non è saturo, ma che l'ha detto che è saturo? Questa qua è la radio che dicono che è saturo. Satura è secondo te? Tu abbassa il tasto, vedrai che si schiarisce ancora di più, adesso è chiara, ma se tu ti abbassi il tasto anche si schiarisce ancora di più, ed è chiara a me adesso. Cavaga, bisogna che sappia qual è il clima, non me lo ricordo come si dice, perché sono andato a cercarlo su internet e non è chiaro il coso, il circuito, da picco, è offuscato. Aspetta un attimo, non capisco. Positivi o negativi ciò? Ma che non stavo guardando. Prova, 1, 2, 3. Positivi. K. La radio è normale, tranquilla? No. Ma la radio? No, Gianni, no. Mi senti pronto? Claudio, stavo spegnendo, dai. Vabbè, dai, sono da abbassare, ma io adesso non ne tocco perché è un casino. È un casino che bisogna avere lo schema. Lo schema ce l'ha Luca, l'ho mandato, ce l'ha Luca lo schema, ciao Natali, io sto rezzando adesso, non vi dico il caldo che c'è, ce l'ha Luca, LVR12 mi pare o 13, adesso non mi ricordo, comunque chiedi a Luca e te lo fai mandare, è a colori, lo schema si vede benissimo, il trimmerino che devi abbassare, perché è troppo satura, ok? Ci sentiamo dopo, ciao Natali. Vabbè, ciao. Per lo meno qua, io col 4.30 e col 4.40 ti dicevo così, se poi Natalino ti riceve meglio, lasciala stare come ti ha detto lui, non è un problema per me. Io dico quello che sento, gappa. No, vabbè, dai. Tanto non ci vuole nulla abbassare, sono overfatti, mi basta metterla a 4. Guarda, io quando uso il baracchino senza lineare, senza niente, con 4 watt modulati 5 mi ascolta da tutte le parti, quindi quando siamo in questione normale va bene così, se entra qualcuno là fuori attacchi, o se è in lontananza attacchi e però ti sente bene, perché io ti sento saturo, poi non lo so, ti ripeto, se è Natalino ti ascolta meglio lascia tutto così, io con le mie radio per capirci ti ascolto saturo, ok? A dopo, ciao Cla. Grazie per l'intervento. Purtroppo questa è una scatola di fiammiferi, magari ascolto bene a tutti. Cosa vuoi dire? Io ti ascolto bene già. Se gli altri si ascoltano male perché hanno altre radio diverse da questa, non lo so. E Natalino, sai, l'hai avuto il 440, no? Quindi io addirittura con l'NB lo sento ancora più saturo, tolgo l'NB è meno saturo, però è quello, capito? Ora se sia il tuo baracchino che ti fa ascoltare meglio, non lo so, però io ti ripeto, lo sento con questa radio qua e bisogna abbassare il watt, se deve usare l'amplificatore, se no non lo so, vedi tu Gianni, io ti ripeto, col baracchini li ho portati tutti a 4 watt e mezzo, 5 modulati, e li uso così, quando devo attaccare attacco non se ne accorge nessuno, vedi solo il segnale salire, hai visto Marco Condor, quando è attaccato, io me ne accorgo perché vedo il segnale più alto, ma la radio rimane invariata. Eia, eia, cara cara! Intanto la Parigi è andata di voce a ritirare due raccomandate che sono già arrivate da un po', non si può andare, non si può andare, ci ho rinunciato, sono delle raccomandate sicuramente di lavoro, ma devo andare per forza, ci ho rinunciato anche stamattina. Ma dove? Alle poste centrali, c'è la gente nel marciapiede, la gente nel marciapiede, finita via Arborea, ma come si fa andare alle poste? Come cazzo si fa? All'ufficio sono a scaglioni, capite? Quindi c'è un bel di gente. Poi devi entrare una a uno, tutti in volo, arrugati, chi va via. Sì, sì, già, ma io le volete raccomandate, sono le poste centrali, capito? Quindi è un casino. Anche qua vicino a casa in via Fallanini c'è poca gente, quelle 6-7 persone, ma vedere in via Cagliari è una cosa allucinante. Gente dentro nelle scale, no? Hai visto com'è fatto? E poi tutti in fila nel marciapiede, un casino, fino all'angolo di via Arborea. Ma come si fa a entrare lì dentro? Ma come si fa? No, è che te le hanno messe via, te le raccomandate, perché se no io le raccomandate le ritiro vicino a casa. Le ho ritirate anche da poco per questione di lavoro. Le raccomandate che mi ha mandato l'ispettorato del lavoro. Già, queste sicuramente sono raccomandate importanti, ma sono lì. Poste centrali, come faccio? Io ci ho rinunciato, non so come fare, bisogna che vado lì alle 7 del mattino, mi siedo e aspetto, perché a questo punto devo ritirare. Vabbè, io sono andato alle 8 e c'erano tre persone prima di me, ma hanno fatto in fretta, due sportelli, facciamo entrare a due e io sono entrato con le seconde. Già, io trovo quando ho pagato il coso per dire della radio, no? Le due concessioni governative della radio, eravamo in pieno Covid e non c'era nessuno, capito? Ai conti correnti, ma tu vai a ritirare le raccomandate, si sono tutte accumulate, capito? Si sono tutte accumulate le raccomandate perché la gente non poteva uscire e andare a ritirarle e quindi è un casino, non so come fare, cazzo, una disperazione, magari c'è qualcosa di importante d'ufficio, non lo so. Io adesso ci provo di nuovo domani, poi dopodiché, non lo so, le faccio rimandare indietro, non lo so. Cavaga. Natalis. Sono qua. Cosa facciamo oggi di buono da mangiare? Non lo so. Anche io mi devo inventare qualcosa, mi sa che vi faccio sofficini di pesce, wow. Devo stare a dieta, ragazzi. Non li metto manco a friggere, li metto in forno. Cosa vuoi fare? Era che cosa? Sono andato in quattro punti, sono andato a comprare la roba oggi. Mi sto appena tornando. Ma tu al caldo non ci devi andare, devi uscire quando c'è fresco. Cosa dovevi comprare? Fresca. Sono troppo. Ma sai che cade un patici al sole non ci devono stare, devono andare sempre nei posti ombrosi. Mi attacco l'aria condizionata. Ah, è vero che c'è l'aria condizionata. Solo chi fuda, non vero? Lo so, e con quella mascherina stavo sudando, cazzo, qua. Dà un po' di fastidio quella mascherina, infatti me la tolgo all'aperto. Ma è una cosa non si crede. Con i guanti, perché sono andato anche a comprare l'affare sono andato per il trattamento, perché ogni mese glielo faccio non mi fido. E dove l'hai preso? Narca Planet, quello di Giovanni Passo. E li vado a pagare di più, dice. Già. Io li prendo da Sandro, li pago di meno. Quanto l'hai pagato tu? Io 32 euro lo pago. A volte anche 29 se c'è lo sconto. Mi ha fatto lo sconto, adesso non me lo ricordo. Quanto l'abbiamo pagato il trattamento per me? No, che abbiamo preso anche il collare. E vabbè, comunque mi ha fatto lo sconto. La vanno veramente. E la propagazione sta arrivando. Quello piccolino come si fa a vedere i fatti? Addirittura lo dei rubuni fa vedere stazionarie da SVR e APVR, chissà cosa cacchio dai su, non si sarà imballato. A farlo ce l'avevo, una taglia, era conservato, non è funzionato. Ma adesso fa questo coso qui. Aspetta che lo attacco, perché l'antenna dice dove devi attaccare, sia l'antenna che il trasmettitore. Era fermo, c'è uno che c'è questo attaccherà vero. Aspetta un attimo, che lo attacco. Chisco segna di più addirittura. Invece segnarmi 4 batte me ne segnati. Il piccolo? Attenta Babelu! Attenta Babelu! Gianni! Oh, qua so! Poco fa non mi sentivi, no? Quando? No, non ti ho sentito. Mi sto... Qualcosa che non basta per passare. Come va? Che cosa strano. Gianni! Qua sono! Avanti, avanti! Fatevi vivi! Vabbè! Vinto dalle riunioni! Ma non saranno due in vatte, no? Forse sono due. Dove va? Oh, là. Io non credo che non mi sente nessuno già. C'è qualcuno sul CH10 27075? Tu a chi vuoi? Mi a Cocomane di Natalino. Ciao Ricca. Ciao Natalino. C'è qualcun altro? Non lo so, ero in ascolto io. Ero in cucina e ti ho sentito che stavo facendo cose. Ah, ho capito. Master, ci sei? Che hai detto che entravi? C'è qualcun altro? Hanno paura. Evidentemente sono affetti da micropanico. C'era coso, c'era anche Gianni doppio room. Ah, doppio root c'era. E se n'è andato? Se non risponde evidentemente è andato via. Ciao Riccardino. Chi è? Quel cocomane di Riccardino è entrato. Mi rovina quel cocomane di doppio room. Beh, Riccardi, come mai così tardi oggi? perché ho fatto la video lezione e adesso ho finito. Natalino, per salutare, come si chiama la tua 50? Concetta si chiama. Come? Si chiama Concetta. Ok, allora la saluto, ciao Concetta. Guardi. Natalino, quando lo alziamo questa antenna che sei un po' bassino? Da bassino sono. Per forza c'ha due parti questo apparecchio, non posso pretendere che è mappa pure, no? Perché quasi quasi ti copre la propagazione dalle mie parti. Già ti capisco, però forse quasi quasi prevale la propagazione. Lo so, purtroppo non posso avere altri apparati perché se vengono a controllarmi è un macello perché distruggono le TV. Avanti doppio root, ciao comunque. Ciao Riccardi, mi si è rotto l'affare del telefono, sta il carica batterie. Ah, ho capito. Ma perché? Come si è rotto? Che ne so, non sono fatto piegato. Aspetta che vado a vedere se ne ho un altro di capo, perché sennò mi tocca andare a uscire a comprare. Ah, ho capito. È successo già, tipo quando metti le prese o tipo non escono più le tiri e si piegano subito. Mi è successo qualche volta. Continua, ti posso seguire anche se sei fuori banda. Fai lo spostato, 5 kg del FM, perché c'è un barattino che stavo riparando che era fuori frequenza, volevo sentire il resto, capito? Aspetto prima di centrarlo, comunque voglio fare il resto. Ed è rimasto barattino così per sentire quello. Eia, ma l'hai chiamato a quel tipo che ti ho detto io? Negativo, stavo facendo commissioni quando eravamo messaggi e sono appena rientrato. Proprio rientrato, mi ha chiamato su, ha preso la stazione, mi ha chiamato su proprio così un attimo. Ah ok, e vabbè, allora lo chiami più tardi perché quello non è da farci scappare, perché ci sono tante di quelle prene che lo vogliono. E scappa, sì. È proprio così, bisogna stare attenti, capito? Niente, adesso trovo, chiamato un messaggio e vedo un po' cosa mi dice. Ehi, vediamo se ce l'ha ancora. Speriamo di sì, ma lui ci va a messaggi. Cosa? Lui li usa i messaggi. Boh, non lo so. Comunque, se non li legge entro un'oretta lo chiami. Ecco, fantastico, non voglio disturbare, che siamo già allora di pranzo, in pratica, magari sta caricando. Magari non disturbo. Comunque si prova, ora adesso mi... Ciao Master, fatti dare il mio numero da Riccardino. Scappa, volentieri. Io ho la Duca e Luca lo sta rispondendo. Io l'ho preso dal pompone, ho la Duca, cioè, meno male che il numero di telefono è un virus, se no... E mi chiami, che devo dirti una cosa. Scappa. Riccardino, fatti scappare il numero di Double. Eia, un attimo che ti devo dire anche a te una cosa prima e poi ti mando il numero. Scappa. Dove ricassa? Da un'altra parte. Ehi, basta. C'è qualcuno su questo canile? Bow, bow! Bow, bow, bow! Ciao già! Ehi, ciao giù! Beh, sto canile, io ho fatto il cane. Perché non è un canile, cos'è, allora? Io una volta mi sono provato a dirlo scherzando su... come si chiama? Cimitalk. E questo qua si è messo a voce. Quando imparerai ad essere educato, ma vaffanculo, che cavolo si credono di essere, che... Perché sono una massa di deficienti quelli lì, tutta gente che fa schifo, tutti camorristi sono quelli che vanno sul cibitoco e nel gruppo, pacchere dai, fanno schifo veramente. Cioè, l'ho detto scherzando, sono rimasto anche male, ero all'ospedale oggi e non potevo usare il baracchino, quindi usavo cibitoco, no, ascoltavo con le cuffie e ogni tanto entravo. Beh, questo qua mi ha fatto questa storia, non l'ho più acceso, ci sono rimasto talmente male che non l'ho più acceso. E figurati, che andate lì di perdita che hai fatto, ma lasciamo perdere, una porcheria quello lì. Poi un pochino si potrebbe salvare andando sulla versione canalizzata, perché lì allora puoi parlare con la gente di vicino tra virgolette, no? Anche a 30 km. Però parlare con quelli fuori. Io quando accendo il cibitoco, sai dove vado? Vado nel canale argentino. Guarda, sono in gamba, sono gentili, ti rispondono, anche se non c'è nessuno che sta parlando, tu fai la chiamata e qualcuno sempre si affaccia. E dunque fai quattro chiacchiere, anche se è un po' difficile capire la lingua, però bene o male uno si arrangia. Ciao Dollaro, ben ascoltato. Ciao Riccardi. Capito già, per cui non è quello il problema, ma mandali al diavolo tutti i clienti illusa che te ne hanno portato anche il Covid-19, te ne hanno portato qua, gli imbecilli. Cara gara, Giulio, dimmi una cosa, la radio come la senti adesso, satura oppure normale? No, la sento bene, però un minimo di, non di saturazione, diciamo che è un po' chiusa rispetto alla voce tua, quella squillante che hai sempre. È compresa, dai, praticamente. O più o meno, dai, diciamo così, che è un po' compressa, sì. Però va benissimo, non c'è problema. Chi non la vuole ascoltare che non l'ascolti già, futti dinni. Ma vabbè, l'abbassa appena appena di watt, che questa è 9 watt di uscita. sto abbassando appena appena di VAT quando ho tutte le caratteristiche per farlo, dai. Vabbè, ma se tu dai retta a tutti gli umori e ai gusti delle persone che ci sono frequenta, cioè le pazzie, poi andare al cazzo in affutti, chi vuole ascoltare ascolta, se non vuole ascoltare spegne e basta, e che se ne frega, cosa stai lì a rompere l'anima, tanto inutile, dopo tanti anni ancora pensiamo a queste cose, ui. Non so, ma magari se si può perfezionare, o giù, è meglio che ti diano un consiglio. Se si può perfezionare, si può fare una radio chiara con più watt, è meglio. Gianni, oh. Gli ho dato il numero, ho chiamato a Fabio e se l'ha scritto su carta e penna. Sì, allora, e faccio, se mi fa un colpo di telefono devo chiedere una cosa. Capito già, per cui non è un problema quello. Oh, yeah. Tanto mi tu ascolti uno e ti dice una cosa, ascolti l'altro te ne dice diversa, sicché tanto vale fare a modo tuo, come credi tu, e non se ne parla più. Sì, perfezionare la modulazione, al limite ti metti l'altro baracchino e ti ascolti. Così puoi fare, tanto mi avevo considerato che tu chiedi 10 persone e ti danno 10 risultati diversi. Ehi, vabbè, per ognuno, che tu capace che tu barrita già diceva questo. Appunto, un po' dovuto anche al fatto che uno ti ascolta magari con un baracchino serio, l'altro ti ascolta con un baracchino meno serio e così via. Per cui la ricezione c'è sempre un punto interrogativo, Olia. Piace o non piace? Punto interrogativo. K. Andava, dai. Vediamo un po' se mi chiama da... Oh, Fabio, ci sei? Fabio? Oh, non c'è Fabio, riprende Riccardino. Riprendo io, si era allontanato un attimo, adesso già riprende comunque. Comunque, come ho detto, saluto a Giulio, ho sentito stavi parlando di CB Talk, io mi volevo comprare il microfono wireless per CB Talk. Oh, Riccardi, lascia perdere, la cosa è troppo fredda, cosa te ne fai? C'è il baracchino, almeno te lo vedi davanti il baracchino, non è come fare su CB Talk. Boh, vedi tu, se vuoi fare quell'esperienza pure falla, però secondo me non ne vale la pena. Puoi parlare col baracchino come parli con CB Talk, almeno c'è gli apparati davanti e ti fai gli occhi quando parli. Non è così, Giulio? Io la vedo così. Sì, anch'io la penso qua loro. Sono soldi speccati, io ricordi, puoi fare come credi. I soldi sono i tuoi e li spendi come credi tu. Sì, no, ma al limite ho ricordi, sai cosa si può utilizzare? Lo possiamo fare anche noi. E nella versione CH, e cioè canalizzata, la versione canalizzata, ma è quella di gruppo. E lì per stare lì dove ci sono magari 50 persone, tra tutti quanti che stanno ascoltando, e poi ci sono 7-8 persone che si passano il microfono fra di loro e non ti lasciano mai entrare, ma non lasciali perdere questi illusi, per conto mio è tutta gente camorrista quella, per carità, è tutta un'altra cultura la nostra rispetto a questi deficienti, nonostante che siamo sempre anche noi italiani, anche loro sono italiani come noi e noi come loro. Per cui non te ne fai niente, Riccardi, spendi 120 euro con quei soldi, comprati un'altra cosa per la CB che ti conviene, tu fai come credi, e questo è il mio consiglio. Dai, Riccardi. No, seguo il tuo consiglio, infatti non è che faccio di testa mia, se mi hai dato un consiglio lo seguo. Che, come ho detto, forse è meglio perché tipo dal telefono puoi scegliere la nazione con cui parlare, è come se io vado in una cabina telefonica e chiamo, invece forse tipo collegare l'America è più interessante perché è solo quando ci sono le condizioni ed è più bello, perché l'avevo visto, però poi io mi sono guardato anche un po' come l'andata su subito, che è pieno di gente, alcuni ci sono anche gruppi in cui sono 30 persone, non si fanno neanche entrare. Appunto, non ne vado la pena, guarda, io l'ho usato alcune volte, ma devo dire che non mi piace assolutamente. Poi naturalmente ognuno ha i suoi gusti e il suo modo di fare, di trasmettere e di comportarsi anche. Io diciamo che, ripeto, anziché parlare con quelli, con gli italiani, vado nel canale argentino, vado e chiamo loro e loro rispondono tranquillamente, solo che c'è un problema nella lingua, tante parole non le capisci, altrettanto sono loro con noi, la metà delle parole che diciamo magari anche loro hanno difficoltà ad ascoltarla, o meglio a capirla. Io l'unica soddisfazione bella veramente che ho avuto quando c'era Franco chiamato binario, diciamo così, che era nella Repubblica Dominicana, o Gianni. E ci siamo prima telefonati e poi ci siamo sentiti su Cibitoco. Era una telefonata semplicemente, come avrei parlato al telefono, niente di più. La soddisfazione non è così entusiasmante per conto mio, Gianni. Gianni. Ehi, ma ti chiamo? Chiama. Poi ho avuto modo anche di parlare con Salvatore Maestrale, ho avuto modo di parlare dall'Australia direttamente e anche con lui, però sono momenti rari, perché quando vai a trovarlo di nuovo in frequenza, in quella frequenza lì a Salvatore ad esempio, Franco era in ferie, se n'è andato lì, era vicino a Tahiti, tipo a Haiti. Dunque ti puoi immaginare, già, nella Repubblica Dominicana era, in un'isola, era in ferie, era, e ci siamo sentiti tramite Cimitoc. Però prima ci siamo telefonati, chiaro, per poterci sentire, se no come facevo io a sapere che lui era lì? Gianni era fatto un attimo di bianco. Sempre lui bianco, è sempre in bianco lui. E cosa vuoi fare? Mica lì è vecchio ormai, e dunque è per quello che va in bianco. Riccardi, non ce l'hai più il 430? No, ma ne devo prendere un altro comunque, perché quello che avevo prima si è rovinato. Ah, ho capito. Vabbè, guarda, va bene lo stesso. Va bene anche il baracchino, non è un problema. Poi quando ti capita l'occasione di averlo di nuovo, te lo compri, eccetera, eccetera. Va bene così. Pensa a te sentirci ugualmente, poi che sei col baracchino, che sei con K è uguale, no? Non cambia molto. Tanto il segnale è buono, la radio è buona, io ti sento benissimo, è la verità. A differenza ad esempio di Fabio, se ti ha ascoltato, Fabio, quando è che ti metti a posto questa antenna, che non sono riuscito ad ascoltarti, non so che voce hai, è quello il problema, ricordi. Fabio ancora io non l'ho sentito, perché non arriva qua. No, ma infatti l'ha comprata l'antenna, gli deve arrivare. Ah, ok, perché voi vi sentite perché abita lì vicino a voi, è chiaro, cioè vicino a quella zona, là è la parte alta, ma qui non arriva, non lo sento io, non lo sente nemmeno ad esempio la Massimiliano stesso non lo sente, non lo può sentire, mentre invece magari lo sente che so io Marino, però è spostato dall'altra parte, si vede che ha qualche antenna direzionale, qualche boomerang, quelli con l'antennino eccetera, no? Che ce l'ha puntata verso una certa zona e qui non arriva proprio per niente. No, già c'è preso una Venom. E speriamo che la metta sul tetto e che riesca a trasmettere bene per tutti, non solamente per qualcuno. Mentre invece sto incominciando ad essere un pochino più contento con Gianni Caprilue, che in questi giorni lo sto sentendo in questi giorni. Va bene, mi stanno chiamando da giù, dai, da casa mi stanno chiamando, dalla Terrenetta. Va bene, vai Erika, ti saluto, vado sicuramente al pronto pranzo, ci sentiamo stasera eventualmente, ciao. Ciao Gianni, se sei all'ascolto, a stasera, ciao, chiudo. Ciao Giulio, ben ascoltato, a più tardi, aspetto che ritorni il doppio room e master. comunque buona carica più tardi. Ok, grazie, altrettanto quando lo farai anche tu, dai. Ciao, ciao. Malaga, scuccia, Alfa 21, Alfa 21, al QTA 6 Sasser, non mi ascolterà mai. Perfettamente. Claudius, ci sei? C'è qualcuno sul CH10-27065, Alfa 21 da questa parte, operatore Riccardo. Buenos días, per Rebecca, scuccia Alfa 21, Alfa 21. Mi piace? Scusa Alfa 21, Alfa 21, mi stai annoiando. Mi spiace, mi sa che hai sbagliato frequenza, non siamo in CW doppia, ritorno in CW doppia. Buenas dias, Penis Liberica, buenas dias, Penis Liberica, scusa Alfa 21, Alfa 21. Canale 10, canale 10, c'è qualcuno sul canale 10? Se vuoi entrare, entra. Canale 10, c'è qualcuno sul canale 10? 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Vieni avanti. Buonasera, Spanish Liberica, scuccia Alfa 21, Alfa 21, dal QTH di Sassari, nord della Sardegna. E il tuo QTH? Ah, buonasera, Siviglia. Hola, vale, vale, recibe, recibe la isla de Sardegna. Ah, ok, vale, buenos días. La estación Alfa 21, operador Sergio, y está modulando del norte de la isla de Sardegna. Te recibo al 100% por ahí, ¿eh? Ok, ok, ahora sube un poco la programación. ¿De dónde transmite? Ah, ok, vale. Estoy hablando de isla de Sardegna, la ciudad de Sassari, ¿eh? La ciudad de Sassari, norte de la isla de Sardegna, ¿vale? Ok, ok, copiado. De la Sassari, no de la isla, no, isla de Sardegna. Ah, ok, vale, vale, Sevilla, una ciudad maravillosa, sobre todo por el caballo andaluz, y muy, muy, muy bueno y excelente. Ok, vale, te recibo con un pequeño de QSB, perdóname, ¿por qué no te recibo al 100%? Ah, ok, muy buena, muy fuerte Santiago 9 y Radio 5, pero habemos un pequeño USB, no te entiendo, para un poquito y ma, tu señal Santiago 9 y Radio 5, muy bonita. Ok, ok. Ah, ok, vale, vale, muy bueno, Estoy hablando con una radio base, una radio Colt Black Shadow y un amplificador, micrófono amplificado y una antena Blizzard 2700. Estoy modulando con 5 vatios esta mi condición de trabajo. Ah, ok, vale, vale, Sevilla, muy bien. 73-51 para ti, todo cuerda familiar, muy, muy bueno. Esperamos para una otra vez en frecuencia. Hoy es más bonita la propagación de QSB es un problema. Ok, muchas gracias y buenos días. canale 10, canale 10, c'è qualcuno su CH10 27075.